22:54 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. 22:54 minuti e 43 secondi. Ci siamo, puntata numero 4 per quanto riguarda. Il percorso, la storia, il racconto della vita di B.B. King, fatta attraverso la voce e pure la regia di Blues Night, che di tanto in tanto ritorna qua sugli 87 e 9, fatta attraverso la lettura di stralci dell'autobiografia dello stesso B.B. King. Allora, fra partecipazioni più o meno straordinarie, eccetera, insomma, avrete capito che perché così ci piaceva. Il livello delle luci, lo so, accecato. Siamo fra partecipazioni eccezionali straordinarie, ci avviciniamo in questo 22 febbraio, poi ne parleremo un attimo di questa data importante, ne abbiamo già parlato per radio. Dicevamo, si va a grandi passi a preparare, e già lo stiamo facendo anche con queste partecipazioni, il 40° di Radio Onda Rossa, il 40° anno di trasmissioni. Vi ricordo brevemente le coordinate della radio, il sito www.ondarossa.info, ci trovate tutto. Andando su Sostieni ci trovate ancora di più, cioè come fare affinché questa radio continui a trasmettere, continui a fare e a promuovere e a propagandare le lotte, a fare movimento, a fare comunicazione. Invece, se volete usare il metodo classico, quello della sottoscrizione tramite bollettino postale 6180 4001, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Ondarossa@ondarossa.info per le comunicazioni alla redazione della radio, 25 o'clock per mandare insulti a noi oppure per sottoporci le vostre proposte musicali. (0649-1750) recapito telefonico da sempre. E appunto, 22 febbraio, avete sentito senz'altro le corrispondenze che ci saranno anche, se non ci sono, ci saranno a breve sul sito, le corrispondenze dalla manifestazione di oggi. 22 febbraio, bandiere rosse al vento, è morto un comunista, ne nascono altri 100, diceva un vecchio slogan che andavamo intonando negli anni passati e ancora oggi. Anniversario della morte di Valerio Verbano, 27 anni fa, il 22 febbraio del 1980. Un compagno che aveva fatto dell'antifascismo non solo un elemento di militanza, ma anche una sorta appunto di studio, di inchiesta militante su quella che era la mappa del neofascismo in quegli anni, e che molto probabilmente è stato ucciso per questo motivo. attraverso un agguato fatto proprio nella casa dove abitava. E di cui, malgrado la costanza e la forza prima di Sardo e poi di Carla Verbano, non si è mai arrivati, almeno dal punto di vista giudiziario, ad avere dei colpevoli e dei mandanti di quell'omicidio. And welcome you to the BB King Show. But before we get into anything else, how about a great big round of applause for the group up as far as. Come on, lay it on them. They can hear ya. All right. For the next few minutes, ladies and gentlemen, you will be entertained by the BB King Orchestra. How about a great big round of applause for the BB King Orchestra? Hey, DP, you come and boogie with me, yo. Era stata una buona cosa suonare alla radio nel locale di Miss Annie, ma non avevo ancora imparato abbastanza e non avevo soldi per comprarmi dei vestiti buoni e un'auto, seppure di seconda mano. La pazienza mi suggeriva che avevo bisogno di esercitarmi di più con la chitarra e anche che avrei fatto meglio a trovarmi un lavoro extra, e così feci. Alla radio mi feci dare un orario di trasmissione che andava da mezzogiorno e mezzo all'una meno un quarto, il che significava che se mi alzavo presto e mi recavo in Arkansas potevo raccogliere cotone fino alle 11 di mattina. I coltivatori dell'Arkansas pagavano molto meglio di quelli del Mississippi. Lavorando là potevo infatti guadagnare fino a un dollaro per ogni mezzo quintale di cotone rispetto ai 35 centesimi che prendevo nel Mississippi. Poi, dopo aver raccolto il cotone e aver fatto pubblicità al Pepticon a mezzogiorno, aspettavo un po' in radio perché a volte si servivano di me come sostituto di Maurice Hotrod Hulbert, un DJ che aveva un programma intitolato Sepia Swing Club. Alle 4 del pomeriggio ero di nuovo nei campi di cotone dell'Arkansas, dove lavoravo per un altro paio d'ore. Questa fu la vita che feci per 3 o 4 settimane. Fu dura, ma redditizia. La cosa più redditizia però fu continuare a frequentare la radio, dove avevano installato un trasmettitore da 50.000 watt, il che significava che in una notte chiara il suo segnale poteva essere captato addirittura a New Orleans. La gente del luogo, poi, sembrava gradire la mia pubblicità per la Pepticon. A volte il sabato andavo in giro con i venditori del prodotto e cantavo i miei jingle dal pianale di un camion. Mi stavo facendo un certo nome in zona. E siccome tutti i DJ avevano un soprannome, alla radio cominciarono a chiamarmi Bill Street Blues Boy. C'erano troppe B ed era difficile pronunciare. E così presto cominciai a ricevere lettere indirizzate semplicemente al Blues Boy, che dicevano: caro signor Blues Boy, può suonare Chicken Snack di Amos Milburn o Hop, Skip and Jump di Roy Milton? Quindi il mio soprannome venne abbreviato da Blues Boy in BB e infine in BB, per gli amici intimi semplicemente B. Insomma, abbiamo cominciato così la nostra quarta puntata qui a Radio Onda Rossa, dedicata a BB King e ci scappa da ridere che certe cose non cambiano mai. Pronto? Pronto. Eccolo qua, la guest star di questa sera. Ci sta pure il... Adesso ci stai pure tu. Io invidioso delle timbriche banitonali di Big Max, mi sono preso l'influenza proprio apposta, per cui vi lascio proprio. Soprattutto ha lasciato i comandi a Spider. Il potere del blues. E Spider naturalmente va a braccio. Va a braccio. E sono sempre andato a braccio. È quello, sì, però è quello che fa. Metteci che so 4-5 anni che non ti mettevi lì da quella parte. Quindi... infatti sono un attimino emozionato, però ho subito preso. Comunque, quanto sta questa confidenza per essere una cosa, diciamo, fra virgolette, seria. Fatta bene. No, fatta male comunque, però seria, perché fatto bene non ci riesce neanche. Nemmeno serio ci riesce. E questa sera però ci saranno entrate a gamba tesa da musicali da parte di Umberto, che si è portato addirittura dei dischi. È così antico, è così tanto tempo che non viene alla radio, pensavo che funzionassero i piatti. Dico, pensa un po'. Dovrebbero funzionare. È uno scandalo, diciamo, che la radio non funzionino i piatti. Questo, o che sia complicato, la insomma. Questa settimana qualche disco l'abbiamo mandato. Questo è il classico esempio del cattivo artigiano che dà la colpa allo strumento, perché siete voi che non sapete usarli, immagino, metterli in moto. Sì, anche quello. Però sì, bisogna allestire nuovamente una postazione lì per mandare la vecchia plastica. La cosa terribile che vi vorrei dire è che poi queste cose stiamo dicendo, questa trasmissione, riuscirete anche a riascoltarle sul sito della radio. Sì. Quindi è una... addirittura. Sì, credo che nelle vostre vite precedenti abbiate commesso qualcosa di veramente grave, orribile, per trovarvi ad ascoltare la replica di questa trasmissione sul sito. Ma guarda, anche la notte faremo in modo che passino pure la notte. Anche la notte, quindi non avete speranza. Presto. Notte fonda, però. O mattina presto. Mattina presto qualcuno ci ascolta, purtroppo. Sì, sì, sì. E insomma, abbiamo cominciato. Questa è la quarta puntata. Abbiamo cominciato pensando di raccontare la biografia di BB King, e quello stiamo facendo. Però poi, per quanto riguarda le scelte musicali, e abbiamo deciso di mettere un po' i brani degli artisti, gli autori che hanno circondato il mondo di BB King, quelli dai quali lui ha tratto pensieri, giovamento, opere, opinioni, ed è molto bello quindi andare anche per gradi a ascoltare la musica che circondava quel mondo. Oggi stiamo negli anni, fine degli anni 40, e dei loro interpreti. Abbiamo cominciato con un classico tema di apertura dei concerti dei Bluesmen. Questo era un particolare brano di apertura di un concerto di BB King, e poco fa avete ascoltato, e anche quello che sta andando in sottofondo è un concerto di tipo Walker. E noi continuiamo avanti con il nostro racconto. E Umberto, Spider, che devo fare? No, tu devi leggere, no? Così eravamo rimasti. Vuoi mettere un disco? Metto un disco io? Vuoi mettere un disco? Addirittura. E dai. Non lo so, magari dopo. Mi trovo impreparato, però metto un attimo. Io per quello l'ho fatto. Tu di qualche stronzata. Ok. La mia fortuna, penso, doveva avere a che fare con i tempi. Ero abbastanza vecchio da aver avuto modo di ascoltare in prima persona il vecchio country blues e cantanti come Blind Lemon Jefferson, che formavano la spina dorsale di quel tipo di musica. Poi ho avuto modo di osservare come quel blues fosse stato modificato e modernizzato da artisti come Lonnie Johnson. Quindi era arrivato T-Bone Walker, con il suo agile stile che mutuava l'atteggiamento cool del jazz senza che il feeling ne risentisse minimamente. Insomma, arrivati alla fine degli anni 40, sembrava che la black music fosse letteralmente in fiamme, e io, seduto nella cabina del DJ della radio, mi godevo il magnifico calore che emanavano quelle fiamme. E noi adesso Louis Jordan ci andiamo ad ascoltare. One One night Farmer Brown was taking the air, locked up the barnyard with the greatest of care. Down in the hen house something stirred when he shouted, "Who's there?" This is what he heard: "There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So calm yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. We chickens trying to sleep and you butt in and hobble, hobble, hobble, hobble with your chin. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. You're stomping around, shaking the ground. You're kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep and you butt in and hobble, hobble, hobble, hobble. It's a sin. Tomorrow is a busy day. We got things to do. We got eggs to lay. We got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. Oh, there ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. Kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and hit the hay. We got things to do, we got eggs to lay, we got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. And kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and hit the hay. Hey, hey, boss man, what do you say? It's easy pickings, ain't nobody here but us chickens. La guerra era finita e la gente si sentiva bene. E la musica la faceva sentire ancora meglio. Penso che fu Louis Jordan che per primo inventò il cosiddetto jump blues, che univa elementi di swing e di blues. Tutti i musicisti che conoscevo, fossero essi cantanti o sassofonisti, chitarristi o batteristi, idolatravano letteralmente Louis Jordan. In primo luogo era buffo e divertente. Che cantasse "Nobody's Here But Us Chicken", che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, o "Red Petite and Gone", ti faceva ridere, poi ti faceva ballare. Le sue canzoni avevano dei testi estremamente arguti e un ritmo irresistibile. Inoltre era davvero innovativo, era la dimostrazione vivente del fatto che si può portare il blues in una decina di direzioni diverse e continuare a farlo essere blues. Charles Brown era un'altra figura di primaria importanza in quel periodo e solo menzionare il suo nome mi emoziona. Aveva cominciato con i Three Blazers di Johnny Moore, che era il fratello maggiore di Oscar Moore, che suonava con Nat Cole. I fratelli Moore erano due eccellenti chitarristi con uno stile estremamente sciolto e conteneva parti uguali di jazz e di blues e forniva l'accompagnamento ideale per cantanti dalla voce morbida come Nat e Charles. Charles ottenne un buon successo con brani quali Drifting Blues e Tell Me You'll Wait For Me, ascoltando i quali non capivi cosa ti piacesse di più, se il suo stile pianistico o la sua voce vellutata. Comunque ciò che apprezzavo maggiormente Charles era il fatto che avesse frequentato un college. Per uno che neanche aveva terminato l'high school, come ero io, era una cosa davvero notevole. Era anche dotato di una tecnica strumentale superlativa e a me piaceva l'idea che fosse benissimo in grado di suonare un brano di Bach, ma preferisse suonare il blues. Il fatto è che nel blues di Charles Brown si può sentire un certo che di bacchiano. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I ain't got nobody in this world to care for me. If my baby would only take me back again, if my baby would only take me back again, well, you know I ain't good for nothing, baby. Well, I haven't got no friend. Un pezzo godibile questo di Charles Brown, che insieme alla chitarra di Johnny Moore, che si fonde pianoforte e chitarra in questo brano in una maniera armoniosa e eccezionale. Continuiamo con la voce di B.B. King. Un altro dei miei musicisti preferiti era Roy Brown, che cantava con voce forte e piena. Dice quattro righe e parte il pezzo. Invece quattro righe. Ma non puoi aver visto che avevo letto quattro righe. Sono otto. Io non pensavo che tu carattere scritto a questo livello di precisione. Mai visto proprio. Tu sei preciso quando devi essere. Ok. Secondo me, lui sta facendo una traduzione in contemporanea, non legge in italiano, ed è una lingua estremamente compatta, quindi con quattro rughe ci mette mezz'ora. Sì, l'ho comprato usato in cirillico. Uno sforzo notevole, spero che apprezziate. Vabbè. Allora, continuo. Vado? Poi ti faccio così con la mano. Ok. Ok, tu però. Mano destra o mano sinistra? Mano sinistra. Lo vedono anche da casa. Okay. Siamo in onda. Sì, sì, sì. Okay. Web radio. Ecco fatto. Un vibrato che mi passava letteralmente da parte a parte, insomma, era uno che aveva le palle e cantava canzoni che piacevano a tutti, come Rocking at Midnight e Boogie at Midnight. A me piacevano anche Good Rockin' Tonight e All She Wants to Do Is Rock di Waylon Harris. Tutte canzoni che riascoltate adesso suonano come primitivi rock and roll, come la musica di Louis Jordan del resto. E noi adesso ci ascoltiamo quello che era partito prima, che era, si tratta esattamente di Rockin' at Midnight. Ok, di? Di B.B. King, dai. No, penso che questo sia Roy Brown. Spero, immagino, così avevo indicato io. Mi raccomando, Roy Brown, Rocket at Midnight, non un altro. Vabbè, mo vedremo e ci accontenteremo di quello che c'è. stood rocking at midnight. Well, I held my baby with all my might. What a wonderful time we had that night. Have you heard the news about stood rocking at midnight? Well, have you heard the news about stood rocking at midnight? Well, I held my baby with all my might. What a wonderful time we had that night. Have you heard the news about good rocking at midnight? Well, sweet Georgia Brown, sweet Lorraine, they got caught with Caledonia's man, Sioux City Sue. Told it all those gals got together and had a ball of crying. Hey, hey, there's good rocking at midnight. They had to take him home. Here's the news about Elder Brown. He stole all the chicken and ran to town crying, hey man, there's good rocking at midnight. Well, Caledonia got drunk, greedy like a pig. She fell down and lost her wig. Fanny Brown, she laughed till she got sick. Caledonia got mad and grabbed a brick, crying, hey man, there's good rocking at midnight. E dunque cominciamo a capire cosa voleva dire B.B. King con questa musica che stava fomentando gli animi alla fine degli anni 40. Era dunque Rocking at Midnight di Roy Brown. Poi c'era Lloyd Glenn, che era un favoloso pianista, che suonava assieme a un favoloso chitarrista, Lowell Fulson, il quale incise una canzone intitolata 3 o'clock Blues, che avrebbe presto cambiato la mia vita e che allora mandavo in onda in continuazione durante il mio show. Le sue canzoni mi raccontavano delle storie e quando finalmente ebbi modo di conoscerlo mi disse: B, tu sei l'unico DJ che mandi in onda la mia 3 o'clock blues e così te la voglio regalare. E noi ve la regaliamo, la mandiamo dal CD. Ci ascoltiamo B.B. King che la suona, 3 o'clock blues, e poi di seguito ci ascoltiamo un bel duetto di B.B. King insieme proprio a Lowell Fulson che si chiama Little by Little. Rolling round. bars where the men hang out at. Ascoltarci un altro pezzo di seguito senza interventi in mezzo, invece c'è il primo intervento a gamba tesa e ci andiamo a sentire invece una cosa che non c'entra assolutamente niente, che ho scelto io. L'ascoltiamo. Si chiama John Quarterman e lui è John Quarterman dei Free Soul e I Got So Much Trouble In My Mind. mentre spezziamo con il funk, ci arrivano anche notizie di chi da Londra, che era all'ascolto di prove tecniche di trasmissione, è rimasta felicemente all'ascolto. Gabri e la salutiamo. Gran bel ritmo, gran bel ritmo, fratello, gran bel ritmo, eh? Veramente spacca, musica, musica giovane, veramente spacca. E chi è che abbiamo salutato? Gabriel, come giovane, con la G, con due come, cioè, Gabriel, sì. Che ci ascolta da Londra. Sì, si è rotto il sintonizzatore della radio, evidentemente. Voleva cambiare dopo la... No, invece è proprio apprezzabile che ci ascoltino. È favorito dal fuso orario, direi, perché lì è presto adesso. C'hanno un'ora di differenza, sei sicuro? Un'oretta ce l'ha, dai, su, poi non di più. A Londra alle 11 di sera è quasi giorno. Allora, qual è invece il prossimo pezzo che ci andiamo a sentire? Adesso siamo stati interrotti sul più bello, però ce la siamo goduta. Com'era questo pezzo funky? Yeah. So much trouble in my mind. Già Quatermain. Il titolo di questo brano. E noi torniamo a B.B. King e ci ascoltiamo questo disco che si chiama Blue Summit, che è un disco che fece nel 93-94, non ricordo bene. B.B. King, una serie di duetti con i suoi amici, uno di questi appunto insieme a Lowell Fulson, il brano si intitola Little by Little. siete incredibilmente all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.900 in modulazione di frequenza, 40 anni di radio libera e indipendente. Agli inizi degli anni 50, quando andava in tournée, Lowell portava con sé un altro pianista, un ragazzo cieco che rispondeva al nome di Ray Charles, il quale aveva egli stesso realizzato un brano di successo, Baby Let Me Hold Your Hand, ed era tanto dotato che avrebbe potuto egli stesso essere il leader della band di Lowell. Però era Lowell la star. E adesso vi devo confessare che quando ho cominciato a mettere mano ai brani di Ray Charles per scegliere quale mandare, è stato veramente difficile lasciarlo, e ne ho scelti due. Uno, questo che viene nominato da B.B. King, Baby Let Me Hold Your Hand. E poi ho trovato un altro brano suonato insieme a B.B. King, Ray Charles e Sinner Prayer, e ci riascoltiamo tutti e due, e io penso che prima o poi nei prossimi 10-20 anni faremo una trasmissione su Ray Charles. Su Ray Charles. Baby, let me hold your hand until I make you understand. Oh, baby, baby, let me hold your hand. I really believe everything would sure be grand. Baby, I want you by my side. Our love we could never hide. Oh, baby, baby, I want you by my side. Well, you know, pretty baby, our love we would never seguito. Andiamo a sentire Sinner's Prayer, sempre di B.B. King. Thank you. trouble overtook me. Yeah. Lord, have mercy, please. How come? Please have mercy on me. How come? How come? Yeah. Prisoner, if I've done somebody wrong, won't you have mercy if you please? Yeah. All right. Giorni di bevute quelli, forse i giorni delle mie bevute più pesanti, e ascoltare canzoni come Bad Bad Whiskey, One Scotch, One Bourbon and One Beer, Thinking and Drinking, mi facevano venire voglia di farmi un altro bicchiere. Comunque quelli erano anche i giorni di autori di ballate bluseggianti del calibro di Cecil Grant e naturalmente Nat Cole, il re. Welcome to the Circle Room of Hotel LaSalle. Music coming to you from the beautiful Hotel LaSalle on Campus Hill. Nat era un caso a parte. Il suo trio jazz è il simbolo stesso del gusto, della tecnica sopraffina e dello swing, quello serio. I musicisti sapevano che Nat era il più grande pianista dopo Art Tatum ed Earl Hines. La sua tecnica era un miracolo di economia sonora, ma quando si scatenava, aiuto. Ho già fatto menzione di quel concerto con Les Paul intitolato Jazz at the Philharmonics. L'assolo che Nat fece in T42 è un'autentica lezione di inventiva. A me comunque piaceva, in particolar modo quando suonava con il proprio trio, non solo per lo spazio che lasciava al chitarrista Oscar Moore, ma perché il sound era assolutamente unico. E questo brano che state ascoltando in sottofondo, che adesso rimandiamo da capo, è appunto suonato insieme ad Oscar Moore, Nat, il re, Cole. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Circle Room of Hotel LaSalle. music coming to you from the beautiful Hotel LaSalle on Campus Hill overlooking downtown Milwaukee. Presenting now the distinctive rhythms of the King Cole Trio. Opening our program tonight, it's Matt Cole, of course, on the piano and the vocal. Here's their latest Capitol recording, Oh, But I Do. Love you, gal. Oh, but I do. Oh, but I do. Do you know why? Oh, but you do. Oh, but you do. Gosh, you really got me up a tree. Gee, my heart is overflowed with glee. My, did you say that you loved me? Oh, but you did. But you did. Will I be true? Oh, but I will. Oh, but I will. Away from you. Oh, but I will. Oh, but I will, dear. When you are many miles away, please remember what I have to say. Oh, but I do, but I do, but I do, but I do really love you. You love me too. Do you wonder, my baby, will I forever be true? Oh, but will, oh, but will, oh, but will, oh, but will, oh, but will, oh, but will, oh, but will, oh, but will, dear. When you are many miles away, please remember what I have to say. Oh, but I do, but I do, but I do, but I do really love you. Oh, but I do, but I do, but I do, but I do really love you. Oh, but I do, but I do, but I do, but I do really love you. Questa sera andiamo con i temi di apertura, come era questo qua di Nothing Cole Trio insieme alla chitarra di Oscar Moore. È una registrazione live in un posto che si chiama The Circle Room. Anche Art Tatum aveva un trio molto famoso con Tiny Grimes alla chitarra. Tatum aveva la tecnica di un Michelangelo e io restavo affascinato nel sentire come Tiny riusciva a lavorare attorno a lui. Tatum suonava mille note, Grimes ne suonava pochissime e la sua tecnica faceva da tranquillo supporto ai fuochi artificiali pianistici prodotti da Hart. Come solisti Charlie Christian e Django Reinhardt erano più impressionanti, ma Tiny Grimes mi insegnò un sacco di cose. La sua genialità stava nell'adattarsi ed egli comprendeva alla perfezione la dinamica di un brano. E ora ci prendiamo un esempio appunto da un disco suonato appunto con il trio di Art Tatum. Uno di questi facente parte del trio era appunto Timmy Grimes. Il pezzo si chiama I Got Rhythm. Thank you. Stessa cosa poteva essere detta per Nat Cole. I piccoli club nei quali suonava di solito non avevano un palco molto grande e così lui aveva eliminato la batteria. Il suo trio consisteva unicamente di pianoforte, contrabbasso e chitarra, tanto semplice quanto ingegnoso. Quando Nat cantava Route 66 o Sweet Lorraine era un'autentica delizia starlo ad ascoltare. Eseguiva comunque anche pezzi decisamente blueseggianti come Mother Told Me o Easy Listening Blues. La scioltezza dell'approccio musicale di Nat rappresentava la chiave della sua genialità. E adesso noi ci ascoltiamo un pezzo che non c'entra niente con quello che abbiamo detto fino adesso, ma no, ci piace. Stai facendo lo sgambetto. Sto facendo lo sgambetto. Attenzione. E allora sì. Quindi a sorpresa. Quindi. A sorpresa, un pezzo che veramente non c'entra niente con quello che stiamo ascoltando, di cui stiamo parlando. Che bello. Ma intanto vogliamo ricordare che siamo su Radio Onda Rossa 87.9, 40 anni, ma sì, anche no, il telefono ti ricordi? 49 17 50, con lo 06 davanti, con lo 06 quando non si faceva, è anni che se chiamavi da via De Vosci 54 non lo dovevi fare. Sì. Da tutta Roma, anche da Boccea, da Tormarancio. E il numero di fax lo ricordate? 4 4 6 3 6 6 6. Però non c'è più. Non c'è più. Non lo farei più perché io ho scelto questo Gil Scott Heron che attenzione. Però prima parlavamo. Si pronuncia così perché io ma senz'altro, guarda, così lo chiamava la madre. Esatto. E questo col nome e cognome. Sì, sì. Si usa. Quindi Gil Scott Heron. Gil Scott Heron. Heron, per gli amici. Questo è The Battle. Oh, uno, dos, tres, quattro. Don't you think it's a was showing up in the bottom. Come on, hit the lick one time, stick. Dico, vabbè, il numero di conto corrente di fax, ma invece vogliamo ricordare le cose importanti, come si fa a sottoscrivere questa radio. Senti, ma questi sono gli Intillimani. Il flauto di panna non lo ascoltavo da un flauto. Sì, però non credo il flauto. Non è il flauto di panna, è un traverso. Eh sì, è più. Gli Intillimani suonavano anche il traverso. Questo no, penso che sono i flauti di legno. Però sono più argentini. Insomma, grande radio questa sera su altre frequenze, ma voi state ascoltando Radio Onda Rossa e vi vogliamo bene per questo. Come si sottoscrive per la radio? Allora, il sito innanzitutto www.ondarossa.info, c'è una paginetta, andare su Sostieni, c'è scritto tutto, quindi già la pigrizia già ci potrebbe fermare qui, però se lo fa proprio il bonifico online. C'è il PayPal. Ah, che figo, io ce l'ho PayPal. Sì, sì, avevi i soldi, il problema. Quello no, però insomma. Ognuno secondo quanto può. Ognuno secondo quanto può, perché appunto questa radio vive così da 40 anni, vive grazie al vostro contributo, alle iniziative che facciamo, alle autoproduzioni che mettiamo più o meno in vendita, insomma, questo è il modo di finanziamento di Radio Onda Rossa, limpido, chiaro, l'abbiamo sempre detto e rivendicato, non facciamo pubblicità, non abbiamo sovvenzioni, né padroni né padrini. Partiti politici o chissà che, ma solo compagni e compagne che credono nel progetto di Radio Onda Rossa e che ci sostengono appunto da tanti e tanti anni. Ok, che ci andiamo ad ascoltare adesso? E allora è il momento di tornare a B.B. King e l'abbiamo già annunciato insieme ad Albert Collins, chitarrista veramente straordinario. Godetevelo. Godiamocelo. Saturday I go out to play. lights up in the west. It's hard to tell, it's hard to tell, it's hard to tell. Which one I love best? La seconda metà degli anni 40 fu un periodo particolare per me, non solo perché incisi la mia prima canzone, ma anche perché smisi definitivamente di copiare gli altri, anche se lo feci più per disperazione che per convinzione. Insomma, in quel periodo ebbi il crescente sospetto e quindi la convinzione di non essere un nuovo Django o un nuovo T-Bone. Le mie dita erano impacciate e la mia mente si rifiutava di pensare in quel modo. Per cui non avevo altra scelta se non quella di forgiare un nuovo stile che si adattasse alle mie capacità. Per certo nel mio stile riuscirono a trovare spazio alcuni elementi degli stili dei miei idoli. Qua e là potrà capitarvi di sentire nel mio modo di suonare uno sprazzo di Charlie Christian o un pizzico di Lonnie Johnson. Ma il singolo fattore che mi spinse in direzione del mio stile fu il suono delle steel guitar hawaiane e delle pedal steel guitar usate nel country western. Un suono che alle mie orecchie suonava umano. Volevo che le mie note avessero il sustain che ha la voce umana e volevo fraseggiare come se la mia chitarra fosse un sassofono, piegando le corde, facendo vibrare velocemente la mano. Ho delle mani belle grosse, sapete. riuscivo a ottenere qualcosa che assomigliava al vibrato di una voce umana. Potevo tenere a lungo una nota. The thrill has gone away. Thrill is gone, baby. The thrill has gone away. You done me wrong, baby. And you're gonna be sorry someday. Chitarra, emozioni umane, e armeggiando con l'amplificatore e le regolazioni della chitarra cominciai a sperimentare suoni che esprimessero i miei sentimenti, la mia tristezza come la mia allegria. Insomma, stavo cercando un modo per far cantare la mia chitarra. Per quanto riguardava il cantare io stesso, le cose erano molto meno complicate, semplicemente seguivo l'istinto. Considero il canto come un gesto musicale più semplice, spontaneo, e perciò ammiravo coloro che facevano uso di tutta la propria gamma timbrica, dal falsetto in giù, senza preoccuparsi troppo di essere precisi. Per me cantare è come parlare, e se uno non suona spontaneo è finita. Con il passare del tempo cercai di legare la mia voce con quella della mia chitarra. All'inizio, quando cantavo gospel, usavo la chitarra come un complemento alla mia voce e come supporto ritmico. Insomma, suonavo la chitarra e allo stesso tempo cantavo. In seguito, però, quando mi dedicai al blues e alla sua arte, scoprì che non potevo fare le due cose contemporaneamente. Facevo un assolo di chitarra, quindi cantavo. Poi facevo un altro assolo e quindi cantavo ancora un po'. L'una cosa iniziava quando finiva l'altra. In quel modo si veniva a creare una continuità, non un conflitto, come una ruota che continua a girare in entrambi i sensi. Entrambi i suoni, quello della chitarra e quello della voce, provenivano da me, ma uscivano da parti diverse della mia anima. in genere durante i concerti alla fine di questa canzone B.B. King sviene. È un classico il comportamento del bluesman sul palco, comunque di esagerare i sentimenti, azione sensazione, azione scenica. Qualcuno del suo team gli porta un asciugamano, lo solleva, lo sorregge. Quando ti ho visto per la prima volta avevi solo 16 anni, eri la cosa più bella che avessi mai visto. Cose che poi ha ripetuto James Brown. Sì, no, penso che sia antico come il blues. Ma forse deriva pure dagli spiritual, questo fatto comunque di arrivare a un'elevazione, essere in qualche maniera posseduti dalla divinità, forse. No, io lo vedo, sì, è molto simile a quello che è il fenomeno della Taranta. E si raggiunge un'estasi, una sublimazione. La voce della mia chitarra divenne più personale, nel senso che esprimeva maggiormente il mio essere. Quando la mia tecnica migliorò, facendo il DJ migliorai molto la mia dizione. Fu però un episodio in particolare che personalizzò la mia chitarra in modo nuovo e permanente. Mi ero appena comprato una Gibson L30 che aveva nella cassa due aperture simili a quelle che hanno i violini. La elettrificai con un pick up e ne tirai fuori un sound davvero soddisfacente. È l'inverno del 49 e io sto lentamente allargando il mio giro suonando intorno a Memphis nei fine settimana. Memphis è un gran bel posto, ma sto imparando che non si può restare sempre nello stesso posto se si vuole allargare il raggio della propria popolarità. È come così a dicembre a suonare nell'Arkansas a Twist, una cittadina a circa 60 km a nord-ovest di Memphis. L'inverno può fare veramente freddo in Arkansas e questa è una di quelle sere di dicembre in cui il calore della musica non è sufficiente a scacciare il freddo. Il nightclub nel quale mi esibisco non è un vero e proprio nightclub, ma lo stanzone di una vecchia gelida casa nel quale, a modo di riscaldamento, il proprietario della medesima ha sistemato nel bel mezzo del pavimento un bidone delle immondizie riempito a metà di cherosene, al quale ha quindi dato fuoco. Insomma, attacca a suonare e l'atmosfera si fa animata, coppie che ballano e si dimenano e io che alimento il loro entusiasmo e l'entità delle loro mance, cantando scatenati blues di Pee Wee Clayton, eccetera. E mi sto divertendo anch'io come un pazzo quando improvvisamente sento un gran vociare. Lì per lì non ci bado, pensando che si tratti di una coppia di ballerini particolarmente su di giri, ma poi mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. Nel bel mezzo della sala due tipi si stanno insultando pesantemente e quel che è peggio stanno affibbiando alle rispettive madri degli epiteti irriferibili. La gente cerca di separarli, ma ormai è troppo tardi. I due cominciano a riempirsi reciprocamente di cazzotti, poi finiscono a terra dove cominciano a rotolarsi l'uno sull'altro finché, come era prevedibile, non finiscono per rovesciare il bidone con il cherosene in fiamme. Bam! Cherosene dappertutto, fiamme, urla, panico e gente. Anche il vostro BB, ovviamente, che si dirige in massa verso l'unica uscita. Pestoni, botte, gomitate in faccia, persone che si ammonticchiano le une sulle altre finché finalmente non riusciamo tutti a venire fuori nell'aria gelida della notte. Sono lieto di aver salvato la pelle, ma poi mi rendo conto di aver lasciato dentro la chitarra nella fretta. Mi sono dimenticato di prenderla con me. L'edificio è ormai in fiamme e sarebbe da idioti tornare indietro a prenderla, ma sarebbe ancor più da idioti lasciarla bruciare, visto che le nuove chitarre, quelle buone, sono difficili da trovare e che non ho il denaro necessario per comprarmene una nuova. Le fiamme si levano sempre più alte, io le guardo e mi rendo conto che ho soltanto pochi secondi per decidere. Decido di provarci e mi butto dentro. Qualcuno cerca di fermarmi, ma non c'è niente da fare, devo andare dentro a prendere quella chitarra. Dentro ci sono fiamme dappertutto e fa un caldo insopportabile, il fuoco mi ambisce i piedi e mi bruciacchia le braccia. Trovo la chitarra proprio nell'istante in cui una trave si schianta al suolo davanti a me. L'afferro per il manico e scavalco con un salto proprio mentre le pareti dell'edificio crollano, mancandomi il culo e la chitarra per pochi centimetri. Riesco a malapena a vedere l'uscita, ma stretta la chitarra al petto mi butto a testa bassa verso la porta e riesco a uscire dall'edificio in fiamme. Ho le gambe tutte scottate, ma la chitarra è salva, per cui prendo fiato e poi ringrazio il Signore. Accidenti, dice uno degli avventori a un altro. Non avrei mai pensato che due tizi sarebbero arrivati al punto di cercare di ammazzarsi l'un l'altro per una ragazza di nome Lucille. Lucille. Non la conobbi mai, ma venni a sapere che era una ragazza che lavorava nel locale. Era stata una serata memorabile e così decisi immediatamente che avrei battezzato la mia chitarra con quel nome, Lucille. Non fosse altro per ricordare a me stesso di non fare mai più una scemata del genere. E noi, per quanto riguarda questa serata, ci chiudiamo appunto con... Guarda caso, andiamo ad ascoltare cose. Ci andiamo ad ascoltare appunto Lucille, di cui c'è stato Umberto che ha fatto una traduzione a casa, si è preparato. No, assolutamente no. Ha tradotto il brano, fra l'altro è un sono più o meno lungo quanto la Divina Commedia, Lucille. È un testo lunghissimo. L'abbiamo tradotto anche con col traduttore di Google, ve lo rispondiamo. Ed è molto divertente. Però una frase che poi è il concentrato del blues, dello spirito veramente della musica blues. E ve lo leggo. In inglese lo leggi? No, tu leggi l'inglese, io traduco. No, leggo direttamente la traduzione italiana, più o meno corretta. Sai, dubito che si possa sentire quello che sento io, ma quando penso alle cose che ho attraversato, come, per esempio, se ho una ragazza e lei mi rifiuta e io torno a casa la sera, forse sono solo, forse non solo, so solo. Prendo in mano Lucille e per far emergere quei suoni divertenti che suonano bene, sounds good. E comunque invece il brano comincia dicendo la musica che stai ascoltando viene dalla mia chitarra, lei si chiama Lucille e io sono pazzo di Lucille. Lucille mi ha portato via dalla piantagione, eh sì, lo puoi dir forte, e mi ha portato la fama. Non penso che potrò mai parlarne abbastanza. Quando mi sento blu, quando ho il blues, Lucille mi aiuta a uscirne fuori, chiamandomi per nome. Ascoltiamocelo. That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. pick up Lucille and you bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. If I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. I think I'm pretty glad about that. Cause don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille. I put it like this. Take it easy, Lucille. I like the way Sammy sings, and I like the way Frank sings. But I can get a little Frank, Sammy, little Ray Charles. In fact, all the people with soul in this. Little Mahalia Jackson in there. You want to know why I call guitar Lucille? Lucille have practically saved my life 2 or 3 times. No kidding, really have. I remember once I was in an automobile accident, and when the car stopped turning over, it fell over on Lucille, and it held it up off of me. Really, it held it up off of me. So that's one time it saved my life. The way I came by the name of Lucille, I was over in Twist, Arkansas. I know you've never heard of that one, have you? And one night, the guy started a ball over there. You know, it started brawling, you know what I mean. And the guy that was mad with this old lady, when she fell over on this gas tank that was burning for heat, the gas ran all over the floor. And when the gas ran all over the floor, the building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. I imagine you're still wondering why I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. And that's been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. To me, can I do one more? Look out, Lucille. Pretty good. I think I'll try one more. All right. Beh, l'ultimo intervento di musica giovanilistica ve lo faccio io. Sono i Bongolian e chiudiamo con champagne e pizza. Ed eccoci qua, quindi 87.9 delle frequenze di Radio Onda Rossa per questa quarta parte. Il racconto della vita, della storia intorno alla vita di B.B. King finisce quasi a luna di notte, 00:52, quindi in piena 25esima ora. Abbiamo cominciato di mercoledì, finiamo di giovedì. Eh sì. E quando ci risentiremo più o meno, lasciamo passare un paio, che è successo? Un paio, si è sentito molto più forte. Un paio d'anni? No, un paio di mesi, dai, un paio di mesi. Che o poi vuole dicevi un paio di settimane. No, facciamo un paio di mesi, no, siamo impicciatissimi nelle prossime settimane. Un paio di mesi che poi diventeranno due e mezzo, tre. Una bella trasmissione di primavera. Un po' prima pure, no? Sì. Aprile. Aprile, forse. Aprile ci stiamo, sì. Aprile è buona. Poi no, io mi sono innamorato del mixer, per cui vorrei ricominciare a usarlo. Mercoledì prossimo, allora, dai. Già trova. Mercoledì prossimo invece ci abbiamo, se non ci sarà l'ennesima buca che ci diamo vicendevolmente, perché poi anche noi abbiamo contribuito, ci sarà il reg. Continua, diciamo, la 25 o'clock nell'esplorare tutti quelli che sono stati i suoni di Onda Rossa in questi anni. Ecumenica da un certo punto di vista, che però poi non è così slegata poi dall'attualità nostra, delle ritmi che mandiamo. Allora, quindi un saluto a tutti e a tutte per mercoledì prossimo. Cosa dobbiamo leggere? Qualcosa sicuramente, la diamo molto velocemente se ci riusciamo. Quelle che saranno le iniziative, anzi la iniziativa prossima è proprio di sovvenzionamento per Radio Onda Rossa, e cioè quella di del 4 di marzo prossimo venturo. Standard Ground Fest parte 2, Oi e Punk a sostegno di Radio Onda Rossa, Affluente Bull Brigade, Fan Assedio, The War Unborn e Tu l'amore. Il tutto a Via Prenestina 173, cioè al centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa. Siccome si tratta di 6 band, si inizierà presto alle ore 19. 5 euro a sostegno di Radio Onda Rossa per l'ingresso alla serata. Sarà in funzione ovviamente cucina, birreria, enoteca e i vari banchetti distro. Il palinsesto della radio continua con la compagna automatica Zara. No, ho sbagliato. Ho detto la cosa vecchia, non si chiama più Zara ormai da qualche mese, si chiama Ario, la compagna automatica. Quindi compagna automatica, le sue selezioni con le repliche delle trasmissioni vanno in onda di notte, poi a partire dalle 8 le prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, in redazione della mattina alle 13 il giornale radio, alle 13:30 lo spazio comunicazione, a seguire Visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, Tracce di cinema dopo, e poi Attica Blues oltre a Black Music, La schiena del sole alle 17 e poi Mezzedes. I redazionali del pomeriggio di Radio Onda Rossa che dobbiamo iniziare a fare, diciamo, dalla stagione radiofonica in corso da settembre, in ottobre. Spazio comunicazione alle 20 e infine cosa più bella che facciamo solo qui alla radio, cioè il martedì autogestito da femministe e lesbiche di giovedì. Apostasia alle 23 chiude i giochi. I cuginetti di Apostasia, bella. Fongis, bella. Paizo. Oh, Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE. Tutti coloro e tutti quelle sottoposti a decreti amministrativi che li costringono a restare nei propri comuni di residenza, non mettere piede nei posti dove studiano, lavorano, hanno la socialità, gli amici, eccetera, eccetera. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista prima che iniziamo la 26esima ora. Salutiamo? È un saluto naturalmente a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie per la pazienza. A risentirci a presto, grazie al professor Fefo che ci ospita. Salutiamo tutti coloro e tutte coloro che sono privati della propria libertà personale. E dai, io non ce ne andiamo sotto la luna comunista. I'll share our dreams under a communist.